volevo fare solo una piccola considerazione. Tannini e la Juve, non è che vedo questa squadra così della Madonna, nel senso pratico. Tutto il calcio minuto per minuto, signori e signori sportivi e amici in ascolti, buon pomeriggio qui dallo studio centrale, vi parla Roberto Bortoluzzo per solo le breve cronache del primo tempo con voi Cagliari. Sei in ascolto, Cagliari. Andiamo, corriamo, tutti a San Siro, si potrà così ammirare l'estro di giocate rare. Tutti convocati di Carlo Genta. Per me questo momento è incredibile. Io provo a parlare italiano. Meglio quando bevi. Nah. Io sempre in Inghilterra per vedere il risultato della Lazio. Grandissimo settimana fa contro Roma. 3-2. Fantastico. Io sempre pensato, perché paura? Perché quando ho visto tutti i tifosi, sei uff, anche io cacco sotto. Buon pomeriggio a tutti. Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Scusate, ma vi convoco tutti all'800240024, ma sbuffo, perché non riesco ad entusiasmarmi per queste eurosettimane nemmeno con il pagliaccio Gascogna, che ieri ha fatto il giro del campo. Nemmeno lui mi tira sul morale, anche se la Lazio passa con le bestie in giro per Roma, come ben sapete, come si sta chiarendo in queste ore, passa insieme a Inter e Napoli in Europa League. Il Milan e la Juventus hanno solo bisogno, il Milan è passato, la Juventus ha solo bisogno, come ha scritto peraltro Maurizio Crosetti, una delle penne più argute, non solo di Repubblica, ma del nostro giornalismo, di un semifreddo a Donetsk. Ciao Maurizio. Eccoci, buongiorno a tutti, grazie. Non lo so, io non ce la faccio entusiasmarmi. Sarà quello che è successo a Roma, sarà insomma il fatto che le nostre di Europa League non sono state così brillanti. Sarà che sono molto triste per il flop di Spalletti, di Matteo e Mancini. Beh sì, indubbiamente ci sono ragioni di tristezza e un pochino piccole di conforto. Cominciamo da queste ultime, per non abbatterci troppo. Direi sicuramente la grande partita della Juve contro il Chelsea, la qualificazione comunque ottenuta dal Milan con due bellissimi gol su tre, però tutto il resto, come hai detto tu, indubbiamente le cose, i fatti di Roma sono oltre la depressione, oltre lo sconforto, oltre anche lo sport, si dice, però mica tanto oltre, sì. Quando si dice sono cose che non appartengono allo sport, secondo me quella è una frase fatta. È chiaro che non sono solo cose di sport, non sono cose di sport, ma sono cose anche dentro lo sport, sì. Sono cose dentro la malattia mentale di chi usa lo sport come per pretesto, provare a, come dire, a guarire le proprie frustrazioni, la propria tristezza esistenziale, o semplicemente il proprio malessere o la propria follia, la propria ignoranza. Poi mi dà un po' fastidio. Non sono marziani, però. No, poi mi dà un po' fastidio Lotito quando dice che i tifosi Lazio non c'entrano niente, così dopo 5 minuti. Credo che i cori ieri sera all'Olimpico non fossero opera di ventriloqui, i cori sugli ebrei del Tottenham. Nemmeno quelli dell'andata, 40.000 euro di multa. No, nemmeno quelli, no. Senti, ma invece il flop di Spalletti, vabbè, re in Russia ma non riesce a uscire dai confini. Di Matteo, io ho l'impressione, vittima di un certo gigantismo di Abramovic, che preferisce girare con, non con un giovane allenatore, ma con un leopardo al guinzaglio. Non è certo un leopardo Benitez, ma lo sogna, potrebbe essere Guardiola che ha già detto no, eccetera. Mancini un po' meno giustificabile, da questo punto di vista secondo me ha ragione Mourinho, cioè Mancini non può dire questa squadra non è matura per la Champions League, nemmeno per il passaggio al primo turno quando passa al Malaga, che pure è di altri sceicchi con il braccio corto che nemmeno pagano gli stipendi. Sì, sono tre situazioni un po' diverse, proviamo a sintetizzare. Di Matteo patisce un'assurda situazione, non che si debba procedere per riconoscenza, ma insomma lui ha vinto una Champions qualche mese fa in condizioni inattese, incredibili, e gliel'ha vinta fondamentalmente Drogba, gliel'ha vinta il mestiere di alcuni suoi giocatori, il gol di Ramirez in Spagna, e la fortuna, perché c'è anche quello, insomma, se in finale ti sbagliano il rigore contro i padroni di casa, poi perdono, cioè sì. I Tiger perdono la Coppa. Però credo che alla fine la partenza di Drogba sia stata più pesante e più influente per il Chelsea di qualunque ipotesi tattica, tecnica, alchimistica in panchina. Cioè alla fine molti di questi personaggi continuano a rincorrere i santoni senza capire che poi non sono loro quelli davvero determinanti. Ci sono ottimi allenatori, come diceva il mio amico Mondonico, un allenatore, più di tanto una squadra non la può rovinare, però che proprio la trasformi se non ci sono i campioni è difficile, e questo è Di Matteo. Per quanto riguarda Spalletti, spiace molto anche a me, certo, una persona seria, un grande lavoratore, uno studioso del calcio, però credo che la sua squadra non abbia in ogni caso una caratura di grandissimo livello internazionale, con tutto quanto, non credo che potesse dare molto più di quello che ha dato. Molto diverso il discorso del Manchester City e quindi di Mancini, che non è fortunatissimo nei sorteggi, questo va detto, perché sono 2 anni di fila che finisce in 2 gruppi come primo turno molto difficili. Sta giocando bene, molto bene in Premier, però continua a sbagliare le partite in Coppa, e io credo che Magnati, Sceicchi, Emiri e quant'altro vogliono soprattutto la ribalta europea per questioni anche di mercato. Certo. E quindi io penso che la delusione per questa uscita, nuova uscita, ennesima uscita dalla Champions, pesi molto più di un'eventuale riconquista della Premier. Quindi io credo che sia una brutta batosta per Mancini. Maurizio, per chiudere, stiamo cercando di gonfiare un po' Milan-Juventus. Per paradosso c'è l'Inter che spera che Rizzoli faccia qualche fesseria a favore del Milan, tanto per levarsi qualche dubbio e magari un po' di vittimismo. Però onestamente, se la guardi sul campo, non c'è partita in questo momento. Beh sì, l'impressione è proprio quella, che se il Milan decide di giocarsi a viso aperto, la Juve lo asfalta, questa è la sensazione. È anche vero che immaginare un Milan rinunciatario e catenacciaro davanti al proprio pubblico solo per questioni di socialismo reale e calcistico è difficile. È chiaro che sulla carta non c'è partita, il Milan è al Sharawi e poco altro. La Juve ha un elenco di contenuti che sembra la guida del telefono di New York. Cioè, se stiamo a mettere in fila tutte le cose positive che in questo momento ha la Juve, tecniche, tattiche, motivazionali, ambientali, beh insomma sì, se mettiamo in fila tutto questo non c'è partita, però il calcio se ne frega di tutto questo. Sì, il calcio è quella cosa per cui magari il Milan trova notte magica e la Juve perde, perché no? Sì. Grazie Maurizio, buon lavoro. A voi, buon lavoro. Grazie, un abbraccio a Maurizio Crosetti. Ci fermiamo per il traffico. 800 24 00 24. Convocati tutti qui. Poi parliamo di basket, parleremo anche di rugby. Poi c'è la Formula 1 che inizia l'ultima gara della stagione con le prime prove libere. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. E io vi aspetto dopo il traffico. Tutti convocati. Ed eccoci qui, Franco da Roma, Marco, provincia di Milano, Vittorio da Napoli, primi 3 convocati e subito in campo, 800 24 00 24. Franco, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo intervenire sui fatti di Roma. Sì. Devo schierarmi un po' dalla parte di Lotito, diciamo, che non erano tutti tifosi della Lazio, quella gente arrestata, sentendo anche le notizie per radio. C'erano anche dei ragazzi tifosi della Roma che io colpevolizzo proprio assolutamente, non c'entra niente con il calcio. Quella gente lì è da mandare in miniera a spaccare le pietre. Sì, però Franco, i cori razzisti su cui l'UEFA ha detto oggi aprirà un'indagine nei prossimi giorni e che fanno seguito a quelli di Londra non sono arrivati, come diceva prima Crosetti, da dei ventriloqui. Assolutamente sì. Quindi la politica purtroppo in certe curve è molto sentita, soprattutto a Roma, sia dalla parte della Lazio che dalla parte della Roma. Quindi, bisogna escluderla. Certo, quindi cerchiamo di fare un po' di chiarezza e la stanno facendo gli inquirenti, e un po' di e di usare un po' di onestà, perché non si può dire noi tifosi della Lazio, la curva della Lazio in toto è vergine ed immune da queste cose. Io credo ci sia una parte vergine e immune da queste cose, un'altra no. Marco, provincia di Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, salti complimenti per la trasmissione. Ma le cambio già subito l'argomento per entrare su Palla Spicchi. Su Palla Spicchi, che tra poco chiamiamo Coach Peterson. Perché ieri purtroppo non ho visto la partita di Milano. Mi interessava sapere da lei, o appunto dopo da coach, come è andata e come mai c'è questa altalenanza sempre di risultati, non riusciamo a tenere una certa linea. Ma intanto ieri poi glielo faccio dire dal coach, che è senz'altro molto più autorevole di me. Ieri c'è stata forse un'inversione di tendenza, almeno nelle parole, nelle dichiarazioni, nel punteggio. 75-60 è finita questa partita, quindi Milano ha deciso di provare ad usare tante energie in difesa a scapito dell'attacco. Fino adesso era stata una squadra che ne dava molte, ne prendeva molti, spesso perdendo. Adesso pare che ci sia questa immersione di tendenza, almeno per il momento, perché è quella la base su cui costruire i risultati. Intanto una vittoria molto importante, perché tiene Milano in corsa in Eurolega. Vittorio, Napoli. Vittorio, mi sente? Eccomi. Salve, gente, un piacere parlare con lei. Ascolti, io volevo dire la mia per quanto riguarda i tifosi. Sì. Forse è un po' drastica la cosa. Evitare assolutamente le trasferte a tutti i tifosi. Non se ne può più. Io sono anni ormai che non vado più allo stadio. Sì. Ma non se ne può più assolutamente di subire queste aggressioni. Ho sentito anche dal vostro giornale che questo ragazzo è stato anche un altro operato, perché insomma ha avuto ma guardi cose... Vittorio, io insomma, vietare le trasferte mi sembra difficile, perché uno, se vuole, con il passaporto e il biglietto in tasca va a vedere le partite. Io, come ho detto mille volte, sono per il tifo disorganizzato, quindi sono contro trasferte organizzate, treni speciali, voli speciali, specialità da tutte le parti, striscioni, tazzebao, settori riservati. Sono contro tutte queste cose. Io sono per la gente che vuole andare a vedere la partita perché gli interessa il calcio, magari anche a fare il tifo, ma sono per la disorganizzazione più assoluta, ovviamente in maniera controllata. Coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao Carlo. Ciao, ragazzi, coach. Amici sportivi, buongiorno. Come stai? Bene, siamo in treno. Sì. Andando proprio a Siena per la partita di questa sera, Siena-Maccabi. Siena-Maccabi, con il Maccabi che insomma, si legge anche oggi una lunga intervista a Blatt, sta vivendo giorni difficili, ovviamente non dal punto di vista sportivo. Certo. Senti coach, Milano, ieri sera, prima un ascoltatore chiedeva come mai continua questa altalena. Ieri sera pare, almeno a parole, sia stata un'inversione di tendenza. Sono queste dichiarazioni di Scariolo: ora scegliamo, continuiamo così, sacrificando un po' l'attacco e torniamo come prima, ricadendo nelle sconfitte. Quindi Milano ha deciso che vuole provare a usare le sue energie in difesa. Guarda, innanzitutto si notava ieri sera, quando noi abbiamo fatto la telecronaca, che arrivano le facce giuste, capire proprio le tensioni giuste nelle facce. E questo gli ha portato l'intensità gli ha portato ad avere reattività, la reattività gli ha portato ad avere difesa, e hanno difeso coralmente, perché non c'è un vero super killer difensore in squadra, però nel collettivo, cioè, si sono aiutati uno all'altro, cioè, Hairston ha fatto una grande stoppata, un paio di recuperi, Langford ha preso 3 sfondimenti e dovevano essere anche 4. Hendricks ha intimidito tutti con un paio di stoppate, Cook si è tuffato in terra per una palla vagante, forse si è preso un paio di rimbalzi. C'è tutti, c'è, quando uno comincia a difendere, gli altri vanno proprio di coda, capito? Cioè, è una cosa contagiosa, è una difesa veramente bene come squadra. Cioè, ogni singola cosa per sede vita è stata difficile. Poi il culmine, il terzo quarto, 25-9 per Milano, cioè, loro hanno fatto 9 punti in 10 minuti. C'era un certo momento, dopo i primi 14 minuti dopo l'intervallo, avevano 12 punti. Quelli lì erano letteralmente stroncati con la difesa, e poi ovviamente quando tu difendi corri, quando corri c'è, certo, anche l'attacco, certo. Quando giochi coralmente in difesa, giochi così in attacco. C'è la miglior partita dell'anno dell'Armania, certo. Per me, c'è da augurarsi che sia un'inversione di tendenza definitiva e non qualcosa di sporadico, anche contro, certo, un avversario se loro, non irresistibile. Se loro giocano così, loro sono una squadra formidabile. Sì, intanto seconda vittoria in fila, perché hanno vinto a Cremona provocando il licenziamento di coach Attilio Caia, che è un bel mistero. Guarda, sì, ma Attilio, cioè, aveva una squadra, cioè, è una squadra fatta di tutti i giocatori che vengono dalla A2, insomma, sì. Nel senso, voler mancare di rispetto, e non ci tengo, è una squadra di A2, okay? E Attilio è uno che fa dei miracoli in queste situazioni, uno dei migliori allenatori SOS in Italia, cioè di emergenza, e lui per me ha fatto quello che poteva con la squadra. Ma cioè, certo. Anzi, hanno dato per 2 quarti a filo dei torcer a Milano, rimbalzo in attacco, disciplina, però cedevano 5, 6, 7, 8 centimetri in ogni volo, cioè prima o poi, e non avevo la panchina. È una squadra di A2, e quindi mi dispiace per Attilio, è sempre valido, è stato anche con noi a Sport Italia, e certamente non andrà a spasso per lungo tempo, la gente sa che lui è bravo. Senti, coach, invece, per quanto può durare la bellezza di Varese, secondo te? Ovviamente, dopo l'inizio folgorante, qualche partita di stretta misura, un punto con Sassari, tanto per citare. Quindi, la gente si è resa conto di loro e si preparano per loro, sono gasati per loro, quindi da qui in poi sarà più difficile, perché sono usciti alla scoperta, in poche parole. Quindi, però può durare, non vinceranno più per 15 punti, se vincono saranno un punto, due punti o supplementare, però è una squadra molto compatta, ben assortita, cioè non solamente hanno scelto dei buoni giocatori, hanno scelto giocatori che sono in grado di giocare insieme, che è la chiave di tutto, cioè una squadra che ha dei talenti che però non giocano individualmente, giocano coralmente, e il risultato è quello che vediamo. Poi sto vedendo giovani crescere in maniera molto veloce anche. C'è Polonare, tanto per dire, che è un giocatore che sta venendo fuori veramente bene adesso, quindi è una bella squadra, e Frank Petucci fa un bel lavoro, ma questo non è una sorpresa. Stasera c'è anche Cantù Pana, partita forse della settimana, mica male. Ma anche noi Sport Italia siamo lì per quello, con l'altro gruppo, grandissima partita, ovviamente c'è proprio fondamentale, perché Cantù ha rischiato di vincere ad Atene contro Panathinaikos, quindi c'è da aspettarsi di tutto. Due grandi partite, cioè Siena Maccabi e Cantù contro Panathinaikos, cioè sono il Maccabi Panathinaikos, ha una scusa di vittoria in Europa che non finisce mai, quindi squadra che Cantù e Siena avranno un bel manipiede questa sera. Sì. Sono la firma per vincere per un punto. Due grandi partite d'Europa, ti sentiamo per TV. Ciao coach, buon viaggio. Grazie a Dan Peterson. Dunque, ci fermiamo per la borsa, Che dite? Poi torniamo. 800 24 00 24, siete convocati tutti quanti qui. Tutti convocati. Ed ecco i prossimi due convocati, sono Marco e Paolo. 800 24 00 24, ovviamente anche messaggi al 349 238 6666. Marco da Milano, buongiorno. Buongiorno, un'osservazione che nasce probabilmente dal fatto che sono tifoso dell'Olimpia Milano, sì, che ha secondo me grossi problemi di identificazione tra giocatori e squadra, nel senso di appartenenza, il senso di appartenenza del singolo alla squadra, secondo me allenatore compreso, ma comunque. Ho notato recentemente, ho visto giocare in televisione Bologna e Varese, sì, che non hanno i nomi dei giocatori sulle maglie dietro. Sì, ho notato questa cosa. Sì. Ora, io non credo che sia casuale, perché a quei livelli, soprattutto Bologna, ritengo che potrebbero tranquillamente spendere il nome del giocatore sulla canotta dietro. Sì. Secondo me è un messaggio che invece viene lanciato a ogni singolo... Pronto? Sì, a ogni singolo, componente della squadra, un messaggio, se vogliamo, un po' alla vecchio socialismo reale, esatto, sì, del tipo tu sei un giocatore ma quello che conta è la squadra. Secondo me non è sbagliata come cosa, no. Anche perché i giocatori dei tempi epici e eroici, D'Antoni eccetera, il nome non ce l'avevano. Anche perché li conoscevano tutti, anche perché cambiavano quindi molto di meno, anche perché l'identificazione di cui lei parlava era qualcosa di immediato e di profondo, quindi in questa ragione stiamo facendo un po' della filosofia anche molto interessante. Io dico che Milano deve trovare un'anima, che poi è un po' la stessa cosa. Io dico che a Milano manca un capogruppo, un capobranco, un leader di questa squadra. L'unico che ha queste caratteristiche è Basile, però l'ho detto tante volte, ormai è a fine carriera, fa il giocatore tattico e è ai margini delle rotazioni. A Milano manca il Mike D'Antoni della situazione, tanto per rimanere in tema, al di là dei nomi sulle maglie, dei problemi di identificazione eccetera. Paolo, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno signor, è un piacere parlare con lei. Reciproco. L'ascolto sempre volentieri quando riesco, perché beh, devo dirle che in provincia di Varese è quasi impossibile prendere il segnale. Comunque. Beh, ma ci sono i computer, c'è... Lo so, ma io sono in giro per lavoro tutto il giorno in macchina, quindi... Podcast, certo, eccetera, certo. Quindi sì, si può ascoltare. Due considerazioni veloci. Una, volevo condividere la gioia da buon varesotto quale sono per il bellissimo momento di Varese cestistica, che ci sta facendo ritornare ai fasti della Stella. E anche per il bellissimo inizio di carriera che ha avuto uno che della Stella fu uno dei fautori, quindi sì. Pozzecco, che è stato l'allenatore fenomenale, anche come inizio di... Fenomenale tanto, diciamo che ha avuto un esordio vincente. Pozzecco allenatore, certamente uno che conosce la pallacanestro, che conosce i giocatori. Io aggiungo però che il passaggio da allenatore a giocatore, soprattutto per uno come Pozzecco, sarà tutt'altro che semplice. Flavio Tranquillo, buongiorno. Buongiorno. Ciao Flavio, tifosi di Varese ovviamente contenti, forse volano un po' troppo alti accostando questa squadra a quella della Stella, sembrano un po' i tifosi della Fiorentina che sognano lo scudetto. Varese è senz'altro una squadra che gioca una gran pallacanestro, è divertente e vedo giovani crescere molto molto in fretta, poi il resto mi sembrano bei sogni. Ma guarda, è quello che succederà nel futuro, un po' difficile da prevedere. Diciamo che sono diverse sia le due Varese che i due set di avversari, questo è un dato. Questa Varese non ha il livello di quella Varese, questi avversari non hanno il livello di quegli avversari. Poi però se questo porterà alla stessa conclusione, onestamente non sono in grado di dirlo e al momento non abbiamo ancora sufficienti elementi per dirlo. Certo. Invece D'Antoni e i Lakers, l'avventura è cominciata, una vittoria e una facciata a Sacramento l'altra notte, anche questa storia molto interessante. Questa sarà molto interessante, non è ancora cominciata, è una storia che comincerà forse tra un paio di settimane, quando ci sarà un barlume di continuità. Se dovessimo giudicare secondo questo principio, concluderemo che il miglior allenatore possibile per i Lakers è Bernie Bickerstaff, che, come ha detto scherzando alla Pulcinella Kobe Bryant, si è levato di mezzo e con Bickerstaff hanno vinto sempre. Sì. Adesso scherzi a parte, il discorso è che credo sia offensivo per un allenatore dire è arrivato, si vede la sua mano dopo una partita. Questa è chiaramente una sciocchezza in ogni sport e in ogni campo. Però come caratteristiche, D'Antoni e i Lakers è un matrimonio che può funzionare. Guarda, sicuramente c'è una cosa che può funzionare e non è tanto D'Antoni quanto il tipo di pallacanestro che ha in mente lui. Sì, certo. Semplificare l'attacco nel senso migliore del termine è senz'altro una cosa di cui i Lakers hanno bisogno e che probabilmente non era nelle corde di Mike Brown. Mike Brown rimane un grandissimo allenatore di difesa, per esempio, però i Lakers di questo inizio di stagione erano orripilanti in difesa, e sono ancora orripilanti in difesa, 71 punti subiti nel secondo tempo a Sacramento, con D'Antoni, in questo inizio di gestione D'Antoni o pre-inizio che sia. Qual è il fatto? Il fatto è che la difesa dipende, secondo me, al 90% dalla voglia di metterla in campo. Esatto. L'attacco invece dipende non al 90%, però in una percentuale superiore al 10% a come ti metti in campo, a che tipo di sistema giochi e a piccole cose. Anche qui però poi, se tu vuoi giocare assieme agli altri in attacco, quello conta al 70%, per fare un numero. Questa è la differenza tra le due cose, questo è quello che potrebbe scattare nei Lakers se si danno la possibilità di farlo, ma dipende molto più dai giocatori che dall'allenatore, in un senso o nell'altro. Tanto mi sembra ci sia empatia come quella che c'era tra Leonardo e i giocatori dell'Inter a quei tempi là. È durata poco, dovrebbe durare un po' di più, però mi sembra che ci sia empatia tra D'Antoni e chi comanda nei giallo-viola, che ci sia, insomma, che ci siano anche lì le facce giuste, distese, forse un po' sollevate. Senti, si giocano quelli di sopra, come si dice in americano, quelli che stanno seduti sopra, cioè proprietà e management, si giocano tanto, perché se fanno un fiasco, è il più colossale della storia, forse. Sì. Tanto ogni tanto, per chiudere, Flavio, perdono anche i Knicks, che rimangono comunque una squadra, lasciami dire, bizzarra, piena di talento, però lasciami dire bizzarra. Beh, sicuramente bizzarra, sono meglio con un giocatore da 100 milioni fuori, già questo è sufficientemente, sì, esatto, bizzarro. Esatto. però detto questo, in questa versione, con questo atteggiamento, sono chiaramente una squadra da supercorsa nella Eastern Conference di questa stagione. Molti pensano che questa versione significhi Carmelo Anthony da 4, che è una parte, secondo me il giocatore più importante in questo momento si chiama Jason Kidd. Certo. Allora le domande sono: Jason Kidd avrà lo stesso spazio quando torna, dico per dire, Iman Shumpert? E poi Jason Kidd tra qui e l'82esima di regular season si ricorderà di avere 40 anni o giù di lì o meno? Questi sono due bei punti di domanda. Certo. Grazie Flavio, alla prossima. A voi. Un abbraccio, grazie a Flavio Tranquillo. Noi continuiamo a parlare con gli ascoltatori convocati anche oggi, ogni giorno, da lunedì a venerdì, 800 24 00 24, per parlare di sport. Antonio, Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo intervenire sul rugby. Sì, certo, tra poco ne parliamo anche, ne parliamo anche in maniera più approfondita. Dica. Sì, soltanto per dire una cosa, che innanzitutto mi sono avvicinato a questo sport da poco tempo, grazie a mio figlio. E sabato scorso è stata una grande festa all'Olimpico, perché veramente uno spettacolo incredibile, e l'Italia ha fatto una bellissima figura. Io mi chiedevo, com'è possibile che la Nuova Zelanda, che comunque non è che sia 4 milioni e mezzo di abitanti, sono riusciti a tirar fuori una squadra così forte e noi con molte difficoltà. Roberto, tradizioni, si chiama tradizioni, cioè in Nuova Zelanda... come un bambino nasce, nella culla gli mettono il pallone ovale, cioè lo sport nazionale è una religione, il rugby in Nuova Zelanda, e dunque non è una gran sorpresa che, nonostante i numeri che lei citava, i neozelandesi sono il Brasile del, si è detto tante volte, il Brasile del rugby. Non è tanto una questione di numeri quanto questione di una cultura pazzesca che appunto sfiora la religione sportiva, quindi è per questa ragione che gli All Blacks sono così, così forti, così potenti, certe volte così imbattibili, come accade nelle ultime stagioni. Roberto, provincia di Venezia. Buongiorno. Mi piace entrare in un argomento dopo aver sentito parlare di basket, che è uno sport meraviglioso, soprattutto giocato nell'NBA, e il rugby, che poi è, credo, il summa anche della... Lei parli, sì, parli di quello che vuole, non si preoccupa. Allora, io parlo della vicenda, chiamiamola così, Juventus, Inter, eccetera, sì. E per certi versi mi sembra un déjà vu che io risento. Prima lei ha usato il termine vittimismo. Io mi ricordo prima del 2006 che ai tifosi dell'Inter erano classificati come piagnoni, vittimisti, non vincete mai, eccetera, eccetera, perché si sapeva perché non si vinceva mai. Mi sembra che ultimamente ci sia stata una inversione. Io credo che fin dai tempi del mancato intervento da parte della federazione nei confronti di un presidente che delirava su 30 scudetti, sì, e non rispettava le, sì, sentenze passate in giudicato, credo che lì sia capito un po' come stava andando la cosa, sì, e certe situazioni purtroppo si sono ripresentate. Allora ecco perché parlo di déjà vu, mi sembra di risentire certi discorsi della serie ma dai, ma cosa volete, la Juve è talmente forte, talmente, ma cosa venite a parlare, erano un po' i discorsi, sentivano di una Juventus che poteva annoverare, sì, però, il Cannavaro, compagnia, so, cantante, Roberto, che hanno vinto, però, il campionato del mondo. Però adesso proviamo a pensare che sia diverso, proviamo a pensare che Moggi non ci sia più, insieme a Giraudo, insieme alla Triade, insieme alle schede telefoniche, proviamo a pensarla così. E quindi se proviamo a pensarla così, io questo l'ho chiamato vittimismo e torno a chiamarlo vittimismo, ma vittimismo da tifoso di Moratti, secondo me non va, o di Stramaccione o degli addetti ai lavori, secondo me è deleterio. Il Milan ha pure preso le sue bacchettate, anche con l'Inter quest'anno nel derby, ma le lamentele sono state un po' più sfumate, magari anche perché avevano mille altri problemi cui pensare. Tutti convocati sempre all'800 24 00 24, tanto che abbiamo convocato anche Giacomo Bagnasco, con cui tra poco parleremo di rugby. Ciao Giacomo. Ciao Carlo. Andrea, provincia di Varese, invece è in linea. Dica. Buongiorno. Questa era la mia terza convocazione e adesso voglio insidiare il record di Cannavaro e Maldini. Capitano. Allora, io volevo fare giusto una considerazione su Di Matteo. Allora, sì. Io Di Matteo è una persona che stimo, è un giocatore che stimavo. Sì. Come allenatore, onestamente, io penso che si sia trovato al posto giusto nel momento giusto. Sì. Senza nulla togliere alla Champions che ha vinto, ma assomiglia molto a quelle Champions un po' senza padrone, un po' come il 2004. Un po' come quando l'ha vinta a suo tempo il PSV. Beh, però l'ha alzata per la prima volta nella storia. No, ma quello Blues. grande merito, comunque lui aveva dalla sua parte lo spogliatoio che comunque Villas-Boas non aveva. Sì. Però insomma, io ritengo che sia forse stato buttato un po', cioè gli sia stata data troppa fiducia, non, magari poi in prospettiva, sì, con un po' di maturazione eccetera, può diventare un grande allenatore, però secondo me non era comunque pronto. Andrea, non lo so, cioè io dico solo che se un allenatore arriva, poi io continuo a pensare, ma questo in valore assoluto, che venga sopravvalutato il ruolo dell'allenatore praticamente in tutti gli sport e nel calcio soprattutto. Se un allenatore arriva, dimostra di avere l'intelligenza comunque di gestire lo spogliatoio, di avere il pragmatismo per costruire una squadra, vince la Champions League, vince l'FA Cup, parte benissimo in questa stagione, è terzo in classifica, potenzialmente non è ancora eliminato dalla Champions League e viene cacciato, beh, qualche dubbio mi viene, cioè mi viene il sospetto che Cellino e Zamparini siano dei dilettanti nei confronti di Roman Abramovich, perché se non riesci a dare quantomeno una stagione di fiducia ad un allenatore a cui, è vero, hai comprato giovani talenti per molti soldi, ma hai tolto Didier Drogba, che era il totem di quella squadra, mi sembra un po' tanto, ecco. Mi pare che Di Matteo la fiducia comunque per quello che ha fatto e fino alla fine della stagione l'avrebbe meritata, così come la merita Stramaccioni. Cioè, Stramaccioni non è, sta facendo benissimo, ma non ha ancora vinto nulla, e tutti dicono è il nuovo che avanza. Di Matteo, in una squadra non semplice, qualcosina ha alzato. Torni a trovarci ben presto. Allora, qualche voce per chiudere l'argomento calcio di Europa League di ieri sera: Guidolin, Mazzarri, Petkovic, Stramaccioni, e poi parliamo di rugby. Non è qui che l'abbiamo persa, qui abbiamo giocato una buona gara contro una grande squadra piena di giocatori importanti e noi abbiamo retto l'urto sul piano tecnico, sul piano dell'organizzazione, sul piano tattico, e dove ci sono venuti sopra e in maniera irrimediabile è stato sull'aspetto fisico, perché a un certo punto con l'ingresso di Traoré e con già i giocatori che c'erano in mezzo lì, da qualche palla ferma poteva nascere qualche pericolo, e così è stato, e in questo modo e solo in questo modo l'Angie ha avuto ragione di noi. Qualche punto lo toglie di sicuro, pensiamo, guardate, siamo qua, no? Ancora i ragazzi devono fare massaggi, la doccia, dobbiamo partire, arriviamo domattina alle 6, solo questo fa, voi che avete fatto calcio a grandissimi livelli sapete cosa vuol dire, le partite, affrontarle con il giusto riposo, con la giusta carica nervosa, noi una partita dietro un'altra, ora meno male per esempio col Cagliari abbiamo 24 ore in più perché giochiamo di lunedì, pensate se avessimo dovuto giocare di domenica, non si fa tempo arrivare, c'è subito un'altra partita importante con squadre che in Italia sappiamo benissimo come sono agguerrite, come sono atleticamente preparate. No, vale tantissimo perché primo obiettivo passare il turno l'abbiamo fatto, ma adesso vogliamo anche essere primi e sicuramente andiamo anche a Maribor per vincere la partita, perché questi sono risultati di prestigio che puntano punti e puntano anche privilegi anche per il prossimo turno. Rubin ha vinto la partita e quindi rispettiamo il risultato del campo, però secondo me l'Inter ha fatto una grande partita, io sono molto contento veramente dei miei ragazzi e gli faccio veramente i complimenti, perché come alle volte dobbiamo essere critici, alle volte bisogna anche dirgli bravi, oggi avevamo anche tanti ragazzi in campo e hanno dato veramente il loro contributo tutti, e quindi sì, il risultato è negativo ma è bugiardo nelle proporzioni, secondo me meritavamo il pareggio, però sai, dirlo avendo perso 3-0 se uno non ha visto la partita sembra strano, però va bene così, dai. E adesso lasciamo che Giacomo Bagnasco ci presenti in un paio di minuti la partita invece di domani con Capitan Parisse, che dice voglio contro i Wallabies 80 minuti come contro gli All Blacks. Che partita sarà, Giacomo? Beh, intanto diciamo che servirebbero 70 minuti come contro gli All Blacks più gli ultimi 10 minuti in una maniera differente. Abbiamo appena sentito dire Stramaccioni abbiamo perso 3-0 ma meritavamo il pareggio. L'Italia non meritava il pareggio contro gli All Blacks, ma sicuramente se uno guarda il punteggio finale 42-10 pensa che sia stata una partita stradominata, e invece teoricamente era una partita aperta fino a un quarto d'ora dalla fine. Sappiamo che non sarebbe stato così, sappiamo che l'Italia non avrebbe potuto ribaltare, però ha fatto una bella figura, ha ragione Parisse a chiedere quell'Italia come intensità, come concentrazione, ma anche come gioco, perché io credo che la meta che ha segnato l'Italia questa volta sia stata una meta veramente importante. Contro le grandi capita di segnare una meta o con la spinta della mischia o intercettando un pallone sulla base di un episodio, stavolta invece è venuta dopo una pressione di minuti e minuti nella metà campo degli All Blacks, con una serie di giocate, con una serie di scelte anche sulle varie punizioni, su come utilizzarle, tutto giusto, tutto è funzionato bene fino alla meta. Quindi l'Italia deve cercare di ripetersi, l'Australia ci aveva dato forse qualche illusione perdendo 33-6 la prima partita in Francia, però sabato scorso ha vinto in Inghilterra, quindi partiamo sfavoritissimi. Abbiamo due novità solo in campo, con Geldenhuis al posto di Pavanello e Barbieri al posto di Favaro, e vedremo di giocarcela. Grazie Giacomo. Grazie a voi. Grazie a Giacomo Bagnasco, a tutti quelli che ci hanno seguito, a tutti i convocati che hanno risposto alla convocazione e quelli che risponderanno. Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia, ci sentiamo lunedì. Questa luce sparata, sembra usando.